Questa fase termina nel maggio del 1945 con la fine della Seconda Guerra Mondiale. In particolare in questa zona le principali località vengono liberate tra la fine di aprile e l'inizio di maggio e in particolare c'è quella che gli storici hanno definito la corsa per Trieste, cioè un tentativo di avanzare il più possibile verso ovest da parte dell'esercito partigiano jugoslavo per aumentare il controllo del territorio alla fine della guerra e poter richiedere, diciamo, un allargamento del proprio confine il più possibile verso ovest. Dall'altra parte avanzano le truppe britanniche, soprattutto in questa zona, con lo scopo di avanzare il più possibile verso est per sottrarre territorio ai partigiani comunisti. Essenzialmente agli inglesi non interessa particolarmente dove sarà il confine italiano, non combattono in nome del nazionalismo italiano naturalmente, ma combattono in nome delle democrazie occidentali, diciamo in una prospettiva già la guerra fredda in qualche modo, anche se la guerra fredda è ancora di là da venire, ma comunque in una logica comunque di contrapposizione, diciamo, ideologica. E quindi cercano di avanzare il più possibile verso est per sottrarre territorio ai partigiani comunisti che in qualche modo sono l'avanguardia dei sovietici e quindi dei comunisti in questi territori di confine. In qualche modo qua si combatte una guerra che va al di là di questi singoli territori, una guerra mondiale in qualche modo, già una faglia di confronto tra appunto le potenze occidentali e le potenze comuniste. Ok, questa corsa per Trieste la vincono gli jugoslavi, nel senso che arrivano un giorno prima, il primo maggio, a Trieste e a Gorizia, e i britannici arriveranno solo il giorno dopo. Per i 40 giorni successivi c'è un governo di questi territori esclusivamente jugoslavo. Dopo quei 40 giorni invece ci sarà una divisione del territorio che poi verrà rifatta più e più volte e che sostanzialmente porta al confine che attualmente è ancora in vigore, ovviamente non più con la Jugoslavia ma con la Slovenia, che è il paese confinante attualmente dall'altra oltre Trieste. Non entro nel merito di tutte le varie suddivisioni che vengono fatte, ma è essenziale ricordare che appunto per 40 giorni l'esercito partigiano jugoslavo controlla militarmente la città, dopo quei 40 giorni c'è un controllo, la città viene amministrata insieme con gli alleati occidentali, quindi non c'è più un controllo diretto da parte jugoslava. In questi 40 giorni avvengono la seconda fase delle foibe, diciamo così, diciamo anche in questa seconda fase qua un altro, forse ci sarebbe un altro mito da sfatare, anche in questa seconda fase la maggior parte delle vittime non vengono uccise nelle foibe e non vengono neanche sepolte nelle foibe. Allora, persone che vengono uccise nel senso che muoiono vivi e cadono vivi nelle foibe e muoiono all'interno delle foibe praticamente non c'è certezza, non ci sono fonti che dicano che sia mai neanche successo neanche una volta. E quello che succede invece spesso è che persone vengono fucilate e poi gettate nelle foibe, ma sono una minoranza di casi. La stragrande maggioranza dei casi sono persone che vengono uccise in altro modo e sepolte in altro modo. In particolare in questa seconda fase la maggior parte delle persone, delle vittime, morirà in prigionia. E vi spiego perché in questa fase, sebbene ci sia un elemento di rivolta, di vendetta spontanea, diciamo, da parte di chi ha subito violenze nei decenni precedenti, la maggior parte delle persone che vengono arrestate e processate, in alcuni casi fucilate, sono persone che subiscono, come dire, un'azione portata avanti dalla polizia politica jugoslava. L'esercito partigiano che arriva a Trieste nel 1945 non è più un potere popolare come era nel 1943, che amministra in maniera così un po' estemporanea un territorio, è un vero e proprio Stato. Belgrado è stato liberato un anno prima, è uno Stato vero e proprio con i suoi organi e con un esercito vero e proprio costituito, con le divise e tutto quanto, che tra l'altro è un esercito che fa parte della grande alleanza antinazista. Quindi questo esercito ha anche una polizia politica, appunto si chiama OSNA, che opera sulla base proprio di liste di nomi, di persone da arrestare, nella quale sono incluse però persone di tipo molto diverso tra di loro. Appunto, c'è da una parte una sorta di resa dei conti, cioè un'uccisione quasi spontanea di persone che vengono ritenute fasciste o comunque vicine al regime o comunque che hanno appunto commesso qualche crimine. Dall'altra invece sono elenchi di nomi che includono sia persone che hanno collaborato con i nazisti, che hanno collaborato con il regime fascista in precedenza, che sono persone che hanno combattuto in divisa o comunque erano in divisa nel periodo appunto dell'amministrazione nazista, ma ci sono anche casi di quella che può essere definita un'epurazione preventiva, un'epurazione di tipo politico, cioè si colpiscono le persone che potrebbero essere pericolose. Nel caso di annessione di questi territori alla Jugoslavia, l'obiettivo politico in quel momento dei comandi jugoslavi è quello di annettere questi territori alla Jugoslavia, cioè questi territori devono appartenere alla Jugoslavia. E quindi chi è contrario, e soprattutto chi può avere un ruolo politico, deve essere eliminato. Quindi alcune di queste persone sono persone che non hanno niente a che fare col fascismo, ci sono anche persone che appartenevano al CLN italiano. Che vengono catturate, processate e fucilate. Dico processate e fucilate perché appunto nella maggior parte dei casi queste persone vengono arrestate, portate in campi di internamento in Jugoslavia e in questi campi piano piano processati, moltissimi verranno rilasciati, la maggior parte in realtà vengono rilasciati e altri invece verranno fucilati, ma in realtà la maggior parte delle vittime in realtà sono vittime degli stessi campi di concentramento, esattamente come succedeva con i campi di concentramento italiani. Se sono, muoiono di fame, di stenti nei campi immediatamente dopo la guerra, a causa delle condizioni di vita nel campo di concentramento, di fatto. In questo periodo si calcola circa 3.500, massimo 5.000 vittime di tutto questo periodo successivo al 45, diciamo. E qui l'ultimo, diciamo, mito che vorrei sfatare è quello della pulizia etnica. Ecco, allora in questo caso, in questo specifico fenomeno non c'è niente di etnico, non c'è nessuna motivazione nazionale in questo tipo di attività, né nelle vendette e nemmeno nelle operazioni della pulizia politica. Lo scopo è puramente politico, cioè eliminare chi può essere contrario al regime comunista e al governo jugoslavo, ma no, non c'è nessuna logica di pulizia contro gli italiani. È ovvio che in questa zona, soprattutto nelle città, gli italiani rappresentano la maggioranza delle vittime perché sono la maggioranza delle persone che hanno avuto il potere che hanno agito in maniera repressiva contro i partigiani negli anni precedenti, ma non c'è nessun legame stretto tra questo e il fatto di essere vittime. Lo dimostra il fatto che in realtà in tutti i territori jugoslavi l'arrivo dei partigiani ha comportato una serie di epurazioni di questo tipo. Con la differenza che in tutti gli altri territori jugoslavi le epurazioni sono state molto molto più numerose, cioè le vittime sono state molto molto più numerose. Soprattutto diciamo, nei confronti dei collaborazionisti croati, cioè in Ustascia c'è stata molta violenza, si parla di decine di migliaia di morti in quel caso, ma anche nei confronti dei collaborazionisti serbi, cioè i cetnici. In quest'area in realtà i comandi jugoslavi fanno molta attenzione a non esagerare, non calcare troppo la mano, proprio perché sanno che sono territori di confine, che sono territori in dubbio, non si sa ancora a chi apparterranno alla fine della guerra, dopo il trattato di pace. Quindi bisogna fare attenzione, non esagerare troppo. Non a caso si seguono delle liste, non si prendono a caso centinaia di persone come succede in altri territori della Jugoslavia. Questo lo dico perché per capire questi fenomeni bisogna inquadrarli in un contesto geografico, storico e geografico più generale, non si può parlare soltanto di questi territori, se no non si capisce perché agiscono in questo modo. È chiaro che se tu guardi le cose solo dal punto di vista di Trieste, ti può apparire che, visto che le vittime sono stragrande maggioranza italiane, la logica sia anti-italiana, ma se tu fossi nello stesso momento a Zagabria o Belgrado, capiresti che invece ci sono vittime dello stesso tipo di epurazione politica che sono serbi, croati, sloveni di altre nazionalità, semplicemente perché quella è la logica che anima il movimento partigiano alla fine della guerra, una logica, se vogliamo, di vendetta, di resa dei conti. che peraltro non è assolutamente una logica esclusivamente jugoslava. La resa dei conti, se ne è parlato molto negli ultimi decenni anche in Italia, è un fenomeno della fine della Seconda Guerra Mondiale che riguarda tutta Europa. Un dato che può essere rilevante: io vengo dal Piemonte, le vittime della resa dei conti in Piemonte sono un numero maggiore alle vittime della resa dei conti in tutta l'area del confine orientale italiano, per darvi un quadro del livello di vittime di cui stiamo parlando.